Trasforma il tuo problema in opportunità. Block. Modulblock.com. Tecnologie e logistiche di magazzino. Io sono Luigi di Cugiono, primogenito di Filippo il Bello di Casei Gerola e di Ercolina di Cantagallo, discendente per linea retta da Carlo detto il Martello perché era carpentiere e da Giovanna detta la Pazza perché era di brutto carattere. Vogliate servirmi un panino col culatello? Immantinente! In Autogrill è arrivato il panino che ti fa sentire come un re, quello con sua maestà il culatello di Zibello Dop Negroni in edizione limitata. Autogrill, la sosta con la A maiuscola. Ordine e fantasia possono vivere nella stessa casa? Sì, e anche nello stesso ufficio. Con i porta tutto e le soluzioni modulari d'arredamento Lazzari, la voglia di ordine non è mai stata così creativa. Lazzari è un marchio Foppa Pedretti e si vede. Meridiani presenta Città del Vaticano. La Cappella Sistina in 24 pagine imperdibili e tanti articoli insoliti. La Clericus Cup, tutte le auto del Papa, la vita a Borgo San Pio e tutti i mestieri dello Stato più piccolo del mondo. Meridiani è in edicola. Se non sei solo fumo, se fai sempre a modo tuo, se ami cambiare le regole, allora sai che è il momento di passare a Renault. Per te New Megane Berlina 1500 DSi 110 cavalli con clima ESP e radio a 15.750 euro. Tasso zero, anticipo zero, TAEG 1,46. Affrettati. Prezzi bloccati fino al 31 dicembre. Ti aspettiamo sabato e domenica. Sono le 16:02. GR 24. Il sole 24 ore. Napolitano su Piazza Fontana, no a minacce alla vita civile. La conferenza di Copenaghen, agire subito, dice il governo danese, e poi sarà molto più difficile. Champions League, la Juventus contro il Bayern senza Chiellini. Buon pomeriggio dalla redazione da Dario Ceccarelli in apertura del terrorismo. La strage di Piazza Fontana ci ha lasciato una lezione che non dobbiamo mai dimenticare. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, incontrando alla Prefettura di Milano i familiari delle vittime delle stragi terroristiche. Una lezione che, secondo il Capo dello Stato, insegna che dobbiamo evitare che in Italia i contrasti e le legittime divergenze possano sfociare in tensioni tali da minacciare la vita civile. E ora la conferenza sul clima a Copenaghen, che si è aperta questa mattina. Il momento di agire contro il cambiamento climatico è ora. Se non lo facciamo, l'opportunità ci sfuggirà di mano e sarà molto più costoso attuare la transizione in futuro. È con questo appello che il governo danese invita le delegazioni dei 192 paesi presenti alla conferenza a dare una coerente risposta globale al riscaldamento atmosferico. Da oggi e fino a domenica 13 il Courmayeur Festival, film e libri dedicati al noir. Criminali e detective, ma anche spie e gli ormai immancabili vampiri. Il Festival di Courmayeur allarga gli orizzonti, anche perché ormai sotto il termine noir vengono compresi diversi elementi, come spiega Marina Fabbri, uno dei direttori storici della rassegna. Il noir è un genere che si è amplificato sempre di più, comprende un po' tutto quello che è il lato oscuro della nostra società. E allora ecco che ci sono i polizieschi, i gialli in senso stretto, con l'indagine a farla da padrona, i cosiddetti noir, dove prevale l'indagine psicologica sulle cause del male. Al Courmayeur Noir in Festival saranno proiettati 29 film, la chicca è l'anteprima di 30 minuti di Avatar, l'ultima fatica di James Cameron. Spazio anche agli scrittori, ognuno dei quali declina a suo modo il noir. Leonardo Padura Fuentes, attraverso il poliziesco, racconta la sua Cuba. C'è poi l'ironia di Matt Haig, l'autore del Club dei Padri Estinti, che presenta il suo ultimo romanzo, protagonista un cane investigatore. Non mancano poi i giallisti italiani, da Carlo Lucarelli a Giancarlo De Cataldo. Per gli appassionati del genere, fra cinema e libri, senza dimenticare le serie TV, l'appuntamento è dunque a Courmayeur fino a domenica 13. Alessandra Tedesco, GR24, Il Sole 24 Ore. In chiusura il calcio. Non ci sarà l'infortunato Giorgio Chiellini nella Juventus, che domani sera affronterà il Bayern Monaco nell'ultimo turno della fase a gironi di Champions League. Ai bianconeri servirà un pareggio per centrare la qualificazione agli ottavi. A Zurigo invece il Milan dovrà vincere per staccare il biglietto per il secondo turno. Mercoledì in campo l'Inter a San Siro contro il Rubin Kazan. Ed è tutto per questo notiziario, il prossimo alle 17. E.ON. Scopri i vantaggi di E.ON Energia Assicurata. La bolletta con l'assicurazione gratuita. Per info chiama l'800-999-777. E.ON ti invita all'ascolto tutti i giorni dopo il GR delle 21 di Mr. Kilowatt. Idee, tecnologie, strumenti e consigli per risparmiare energia. Tutti pazzi per Opel, prezzi shock su tutta la gamma. Un esempio, Meriva da 11.900 euro con Espi Plus e Clima, con rottamazione. Affrettati, tutti gli incentivi scadono a dicembre. Il massimo è solo ora. Tutti pazzi per Opel, sabato e domenica. Tau con G è uguale a meno G per M fratto R. No, è impossibile. Non ce la faremo mai. Ci vorrebbe un caffè. Quando hai bisogno di ricaricarti. Ce l'hai? Ce l'ho, ce l'ho. Passa, passa. Passa a me. Pocket Coffee, la carica del caffè, l'energia del cioccolato. Adesso va molto meglio. Ma sai che era facile? Vai, vai. Pocket Coffee, carica ed energia, sempre con te. Palleggio frenetico, passaggio corto, palla che schizza a destra, a sinistra, in alto, no, in basso, fallaccio. La palla vola, finta di corpo, all'ala, al petto, magico recupero a centrocampo. L'ha recuperata, ma dove va? Dove va? Credit Reforma. Con più di un secolo di esperienza, recupera i tuoi crediti nel mondo con efficacia, velocità e talento. Chiama il numero verde 800 425 325 oppure collegati a creditreform.it. Quando Credit Reforma entra in azione, non perde mai la palla. Folgheria e Lavarone in Trentino. Una stagione fantastica e con tante novità. Peccato non esserci. C'è una proposta per tutti, ma soprattutto la combinazione giusta per tutti. Settimana bianca con Ski Pass a partire da 299 euro. E io scio gratis. Info e condizioni su folgheriaski.com oppure allo 0464 72 19 69. Chi è? Signora, che taglia ha? Scusi, ma come... No, perché se la L leva strettina, ora c'è l'XL. Che cos'è, uno scherzo? No, è energia. Con energia tutto compreso di Enel Energia per il mercato libero è semplice. Scegli la tua taglia e se la rispetti prevedi la tua spesa. Aderisci all'offerta entro il 31 gennaio e per un mese la tua taglia è gratis. Che fa, signora? Mi aderisce? Chiama l'800-900-860. Promozione riservata a nuove utenze Enel Energia riconosciuta dopo un anno dall'attivazione della fornitura. Enel, l'energia che ti ascolta. Quest'anno il regalo di Natale più grande te lo fa Citroën. Jumper compact cantiere da 13.390 euro e Berlingo First Van 1400 B Energy Metano da 3.990 euro. E su tutti i veicoli commerciali, assicurazione furto incendio compresa nel prezzo, più leasing e full leasing a tasso agevolato al 2,99%. Prezzi bloccati fino al 31 dicembre. Ti aspettiamo anche domenica 13. Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Buon pomeriggio, benvenuti. Luca Tremolada al microfono. Sono le 16.08. Insomma, lo avete sentito anche dal giornale radio. Tutti gli occhi puntati su Copenaghen, il clima al centro del dibattito. Per due settimane sentiremo, speriamo insomma di sentire parlare di clima, e sentiremo anche esperti, scienziati. È in corso una battaglia, volendo anche un po' a sfondo religioso, tra catastrofisti e negazionisti. Noi però vogliamo provare a fare un'operazione diversa, vogliamo provare a guardare, come ha scritto oggi Krugman sul New York Times, a guardare, a essere ottimisti, a dare per scontato che insomma i grandi del mondo si metteranno d'accordo. Molto probabilmente l'accordo vincolante forse ci sarà, visto insomma i segnali che arrivano, e noi preferiamo però, mentre i grandi decidono quello che si dovrà decidere, guardare a quelle che possono essere le conseguenze sul clima dell'innalzamento della temperatura. E come lo facciamo? Questa volta lo facciamo guardando un aspetto che non è stato molto raccontato sui giornali, ossia il fatto di provare a capire quale possibile relazione c'è tra le malattie, quindi tra la salute e il clima. per raccontare, per provare insomma a sviluppare questi possibili link, partiamo da una storia molto particolare di uno scarabeo, e la raccontiamo subito. Tutta colpa dello scarabeo del Pino, noto anche come Dendroctonus ponderosae. Sarebbe lui l'agente destabilizzante delle foreste del nord del Canada. Le temperature invernali meno rigide del solito a causa dell'aumento delle temperature avrebbero portato a un aumento della sopravvivenza del nostro scarabeo. Risultato? La più grande infestazione della storia nella provincia canadese della British Columbia. Il caso del Dendroctonus ponderosae non è però isolato. Lo sostengono alcuni scienziati della Convention on Biological Diversity dell'ONU, che vedono non pochi pericoli nell'affacciarsi di specie invasive, tropicali e quindi più resistenti, in ecosistemi fino a poco tempo fa a loro ostili. A rischio c'è la biodiversità del clima. Le specie invasive possono alterare l'idrologia, i regimi del fuoco, il ciclo dei nutrienti e altri processi degli ecosistemi. Ma in gioco non ci sono solo le foreste. L'aria più calda e i periodi vegetativi più lunghi possono allargare il limite geografico di alcune malattie. In altre parole, la distruzione e la perdita di biodiversità può aumentare l'incidenza e la diffusione delle malattie infettive fra gli uomini. Allora, noi a breve ci collegheremo a Copenaghen con Gigi Donelli, che è là per raccontare il vertice. Ora invece ci colleghiamo con Guido Romeo, che invece è a Roma, il mio fedele compagno quando trattiamo i temi di scienza. Buongiorno. Ecco, buongiorno, sì, anche infedele oggi come compagno, oggi infedele. Sono a Roma. Esatto, non ti chiediamo che cosa sei andato a fare a Roma, ma invece ti chiediamo insomma di cominciare subito a mettere le mani in pasta. Abbiamo appena parlato di questo scarabeo perché? Per dire che, attenzione, che la biodiversità, più si colpisce la biodiversità e più aumenta da un certo punto di vista il rischio di malattie nuove o vecchie. Entrambe. Aumenta il rischio di malattie e non solo per lo scarabeo e per i pini, ma soprattutto per noi, che è la cosa, per noi umani, che è la cosa che ci sta più a cuore. Perché a te non interessa lo scarabeo, però insomma anche lui ha una sua dignità. Lo scarabeo è importantissimo, ci piace tanto, porta fortuna, poi sappiamo che tu sei un fan degli scarabei, esatto. Però io volevo riportare la palla, come dire, su una cosa che sta a cuore degli italiani, perché proprio insomma nei giorni nelle ultime settimane prima del summit sul clima sono uscite un po' di balletti di cifre su le reali preoccupazioni degli italiani, e è stupefacente che, nonostante, come dire, l'attenzione dedicata a questa grande conferenza di Copenaghen, a tutti i temi della green economy, del clima, del cambiamento, in realtà poi i nostri lettori, i nostri ascoltatori non è che fossero così preoccupati. Ecco, Guido, se sei d'accordo, lo chiediamo anche agli ascoltatori che sono in radio, 824 0024 349 238 6666 se si vogliono usare gli sms. Insomma, chiediamo anche noi se c'è un po' di timore legato al riscaldamento climatico. Prego. Facciamo un bellissimo esperimento in diretta, ecco. Andiamo a incrociare i dati dei sondaggisti, così capiamo quanto loro siano fedeli alla realtà, quanto sia fedele questa. Anche perché, Guido, quello che un po' di solito i nostri ascoltatori ci ricordano, ma anche nelle mail che arrivano a Nova Lab 24, insomma, si sente un po' puzza di bruciato, cioè tutta questa attenzione, sì, sul clima. Anche di questo parliamo, te ne volevo parlare poi più avanti, perché oggi insomma parliamo di epidemie che colpiscono l'uomo, ma poi ci sono naturalmente anche le epidemie mediatiche, come abbiamo visto negli ultimi giorni. Ma per fare un punto, prima di poi parlare con gli altri ospiti, di che cosa sono preoccupati gli italiani, e su questo appunto i nostri ascoltatori possono forse reagire e commentare anche. La prima preoccupazione è quella sostanzialmente e giustamente della povertà, della crisi, della diciamo della, di un cambiamento forte a livello economico e sociale, e in fondo questo è quello che è il portafoglio, è sempre un po' la cosa che è più sensibile ai perdita del lavoro e perdita del potere d'acquisto, guarda. Beh, insomma, lo leggiamo, lo vediamo, capita a molti, quindi non è chiaramente una situazione facile. Diciamo che è una paura abbastanza chiara e fondata, ecco. Immediata, assolutamente fondata. La seconda preoccupazione invece è quella di ammalarsi di influenza A, nello specifico. Qui entriamo un po' nel tema adesso, perché invece il clima, e come mostrano poi i dati sia di Eurobarometro a livello europeo sia dell'osservatorio Observa a livello italiano, non rimane che nella terza posizione, perché è percepita come qualcosa di, insomma, più... Quindi farebbe più paura l'influenza A di una possibile inondazione, se i scenari sono stati, ecco, descritti nel peggiore dei modi anche. Esatto, la suina fa più paura dell'uragano, ecco. Però il legame che cerchiamo di evidenziare oggi è che il clima, cioè l'uragano, in realtà ha molto a che vedere con la diffusione di fenomeni come quello dell'influenza A e di altre possibili pandemie. Ecco, quindi se sei d'accordo, comincerei a introdurre Andrea Crisanti, medico, professore di microbiologia dell'Università di Perugia e all'Imperial College di Londra. Buongiorno, dottore. Buongiorno ai suoi ascoltatori. Ecco, allora, insomma, c'è un... innanzitutto vediamo di capire qual è il legame che lega, scusate il gioco, il clima alle malattie, alle nuove malattie, a malattie che non conosciamo magari. Beh, penso che il legame più importante sia che questi cambiamenti climatici creano nuove nicchie per insetti che trasmettono le malattie, che attualmente sono confinati in regioni tropicali e subtropicali, creano nuove nicchie in Europa, per esempio, in America. E questo è già accaduto, abbiamo diversi esempi di questo. L'esempio più emblematico è quello della zanzara tigre, che, ecco, originariamente del sud-est asiatico, fino a 20 anni fa è rimasta confinata, e la combinazione tra la globalizzazione, quindi movimento dei trasporti, merci, e cambiamento climatico, chiaramente hanno fatto sì che da una parte avesse l'opportunità di essere trasportata e dall'altra avesse l'opportunità di stabilizzarsi in zone dove prima erano sfavorevoli. Quindi, ecco, praticamente in pochi anni ha colonizzato. Ecco, quando è che è arrivata per la prima volta? Cioè, quanto è stato l'uomo e quanto invece, oddio, è la stessa domanda in un certo senso, cioè quanto può essere stati i trasporti, la tecnologia, e quanto invece il cambiamento di temperatura? Dunque, sicuramente i trasporti sono il responsabile principale, perché altrimenti, sa, una zanzara fa 500 metri in un giorno, portarla dal Giappone all'America senza, diciamo, trasporti e la globalizzazione, questo non sarebbe mai accaduto. Tuttavia, grazie anche al cambiamento climatico, la zanzara ha trovato nuove nicchie là dove prima non avrebbe avuto la possibilità di passare l'inverno. Adesso, per esempio, in Europa la zanzara tigre ha colonizzato perlomeno 15 nazioni europee, l'Italia da circa 20 anni. In Italia si è totalmente stabilizzata, è una delle principali zanzare italiane in questo momento. Ecco, e diciamo, la possibilità di colonizzare sta andando verso nord. Teoricamente può colonizzare anche l'Inghilterra, per esempio. Ah, fino all'Inghilterra può fino salire, anche arrivare, alla fredda Inghilterra, cioè, per cui sì, non è neanche più tanto fredda. Questo non è più punto. Neanche tanto fredda. Esatto. Ecco, ma che cosa succede? Cioè, il fatto che stia in un certo senso risalendo, al contrario di Attila, l'Europa, no? Al contrario di quello che aveva fatto l'Attila. Cioè, che pericoli comporta? Cioè, ci troviamo, guardi, di fronte allo stesso tipo di zanzara, o è una zanzara diversa? Ma no, la zanzara è la stessa, è una zanzara che è potenzialmente in grado di trasmettere circa 20 malattie virali all'uomo, di cui alcune particolarmente gravi. E in Italia c'è da dire che 2 anni fa abbiamo avuto la prima epidemia tropicale, una malattia tropicale, da 50 anni, dall'anno in cui abbiamo eradicato la malaria, che era l'epidemia di chikungunya, che è avvenuta nell'Emilia Romagna, nella zona di Rimini. Ecco, è proprio trasmessa dalla zanzara tigre, e questo è stato un campanello d'allarme che ha scosso tutta Europa, insomma, ecco. Ecco, tornerò un attimo a Guido Romeo. Guido, non è l'unica malattia, tra l'altro, cioè ce ne sono altre. Io mi ero partito con lo scarabeo perché l'avevo presa un po' lontana, cioè addirittura guardavo agli alberi, eccetera. Però insomma, ci sono anche altre possibilità, altri tipi di influenze che possono arrivare. No, ci sono tantissime, tantissime malattie e anche molto spaventose. Magari dopo Crisanti ce ne può fare un elenco, ne abbiamo parlato alcuni giorni fa, e alcune, come dire, sono veramente delle brutte bestie. Parliamo di malattie come il dengue, che chi ha viaggiato o ha visitato l'Africa sa quanto può essere temibile. Sono malattie mortali per cui non ci sono cure, ma anche fibre emorragiche, insomma, ma anche per esempio la meningite, per esempio proprio in Africa, nella fascia del Sahel, c'è quella che chiamano la cintura della meningite, cioè una fascia di territorio dove ogni stagione delle piogge porta epidemie di meningite, perché arrivano gli animali, le zanzare, gli insetti, i vettori, e quindi c'è l'epidemia. E la letteratura scientifica è ricca di casi documentati, per esempio di come i cicli di El Niño, che sono chiaramente condizionati anche questi dal cambiamento climatico, in Sri Lanka sono associati all'epidemia di malaria. Quindi c'è una grande documentazione di questi fenomeni, di questi legami. Quello che sta cambiando è che la zona sfortunata in cui clima e malattie vedono un rapporto sinergico e si sta ampliando, e forse la domanda per Crisanti è un po' questa, perché in questi giorni precedenti a Copenaghen abbiamo sempre sentito parlare di un target, di un taglio delle emissioni in grado di contenere l'aumento delle temperature di 2 gradi centigradi. Questo è il target. In realtà adesso, per quello che sta a quello a cui sta puntando Obama, si arriverebbe a un contenimento di un aumento di 3,5 gradi, ma ecco, se Crisanti ci può spiegare quanto è sufficiente, cioè bastano 2 gradi di aumento medio, 3 gradi e mezzo sono troppi, o cioè quanto conta un grado nello spostamento delle nicchie ecologiche, delle zanzare di cui parlava, e come possiamo combatterle poi? Crisanti, ha sentito la domanda? Sì, no, l'ho sentito molto bene, infatti è molto è una domanda particolarmente pertinente. Quello che posso dire è che chiaramente si parla di aumenti medi della temperatura globale, che tengono presente sia le terre emerse che il mare, e però ecco, quindi questo significa che però l'aumento di temperatura non è omogeneo, anzi infatti sta interessando prevalentemente 3 regioni, che sono la Siberia, sono l'Europa centrale, i Balcani, e sono il Nord America e il Canada. Queste sono le regioni più colpite dall'ampliamento climatico. Quindi quando si parla di 2 gradi medi, ci sono regioni in cui la media aumenta anche di 4-5 gradi, e 4-5 gradi di media poi significa che le variazioni massima e minima sono completamente diverse, anzi in genere tendono ad aumentare più le minime che le massime, e quindi crea opportunità per gli insetti di superare l'inverno, che questa è anche la ragione per cui il Beetle della California praticamente sta distruggendo tutte le foreste del Canada, prevalentemente per innalzamento delle temperature minime. Quindi non è tanto la media, ma questa media va vista in regioni più esposte e variazioni delle minime e delle massime. Chi è che se la sta passando peggio? Sì, esatto, ci sono regioni molto più colpite. Tipo? Per esempio la Siberia è molto colpita da questa cosa, così come la Nord America, e l'Europa poi noi lo sperimentiamo chiaramente, no? Perché adesso io ho una certa età, ma effettivamente le stagioni sono diverse, insomma, ecco. No, questo è quotidiano. È aneddotico, cioè, però è vero. È aneddotico. Tra l'altro, cioè, la cosa che però proviamo adesso a girare, insomma, la questione, cioè che si può fare per, come diceva appunto Guido, per insomma fronteggiare questa emergenza. Guardi, che poi può diventare un'emergenza, chiaramente. Guardi, ci innanzitutto bisogna capire che ci sono diversi fattori che determinano l'aumento della temperatura. Ci sono i fattori in cui noi non possiamo assolutamente fare nulla, e che sono l'aumento dell'attività ciclica della radiazione solare, che sono lo shift verso la fusione dell'elio rispetto all'idrogeno, che aumenta la temperatura e la luminosità del sole, e poi c'è l'emissione di gas che assorbono gli infrarossi. Ecco, noi possiamo agire solo su quest'ultima componente, ed è proprio la concomitanza di questi fattori che genera poi questo conflitto tra catastrofisti, ottimisti e così via. Quindi noi possiamo agire solo su una componente. Io penso che per senso di responsabilità dovremmo fare il massimo per agire su quello che noi siamo in grado di fare. È chiaro che nessuno in questo momento può dire quanto sia poi l'impatto dell'anidride carbonica rispetto a questi altri fattori nel futuro, però si sa che è importante. Sì, tra l'altro mi sembra prevalente un po' un atteggiamento alla Pascal proprio sull'esistenza di Dio, cioè io non so, cioè non voglio entrare nel merito dei dati, però senza avere certezze farei qualche cosa. Mi esatto, sembra che penso che questa è un po' questo, cioè Pascal esatto. Diceva io non so se esiste Dio, però insomma mi conviene crederci tutto sommato, adesso lo vedo un po' bruttina, però esatto. Il senso esatto. È esattamente questo. Ecco, in questo senso insomma, ci ha spiegato non so quali sono le cause. Tra l'altro tutti gli ascoltatori o buona parte degli ascoltatori giustamente si domanda ma quant'è la responsabilità dell'uomo? Anche qui non c'è una misura. No, non c'è una misura. Non si può dire, si sa sicuramente che il trasporto aereo ha un peso ingente se si ragiona su in termini di buco dell'ozono e quindi di gas, però capire questo, quantomeno stendere questo dato nei tempi lunghi del clima, ecco, questa è un'operazione complicata. Infatti la domanda che io le volevo fare, mi dà una risposta veloce perché siamo in chiusura, è insomma di agenti nuovi, di insetti tropicali che raggiungono le nostre coste, però insomma tutta la storia, almeno gli ultimi nostri 100 anni di storia, ci sono sempre stati fenomeni di questo tipo. Sta cambiando qua, c'è un cambiamento più importante questa volta? Ma io penso che c'è un cambiamento anche legato al fatto che molti di questi insetti stanno diventando anche resistenti agli insetticidi. 50 ecco, anni fa, infatti volevo restare su questo tema, però la blocco perché adesso diamo la linea alla borsa e sul tema di come debellare gli insetti ci torniamo nella seconda parte. Ogni sabato sera su Radio 24, la storia e la memoria. I radiodocumentari, le testimonianze, le interviste e le voci dei personaggi che hanno cambiato la storia del mondo. La storia e la memoria di Alessandra Scaglioni e Dino Pesole, ogni sabato sera alle 21.45 su Radio 24. In collaborazione con History Channel. Moglie! Ho montato l'albero preistorico di Natale! Bravo! Intanto il vicino con il nuovo trapano battente PSB Bosch con batteria al litio si è montato tutta la capanna con il Dino Boo e il pronto asinello! PSB, ma che animale è? Innovativi, leggeri, facili da usare e sempre pronti all'uso grazie alle incredibili batterie al litio. Sono gli elettroutensili Bosch, l'invenzione più bella. Dopo il fai da te. Quando arriva Natale? Elettroutensili Bosch con batteria al litio. Tutto il resto è preistoria. Scopri i 1000 modi di usare Bosch su bosch.it. Attenti! E dopo un incidente, burocrazia, lentezze, risarcimenti inadeguati. Oppure parte lesa, la rete italiana di centri specializzati nel risarcimento danni da incidenti stradali, malasanità e infortuni sul lavoro. Apri un centro parte lesa in franchising e in breve potrai diventare un professionista del risarcimento danni, avviando un'attività con grandi prospettive. Perché nella vita, chi non è mai stato almeno una volta parte lesa? Per saperne di più, 800 14 49 72 o partelesa.it. Bella come un'opera di Battistello Caracciolo, come i panni stesi, come l'odore del pane, come il barocco. Campania, così bella che è vera. Dicembre 2009, aprile 2010, ritorno al barocco. Progetto della Regione Campania cofinanziato dall'Unione Europea. Tutti passi per Opel, prezzi shock su tutta la gamma. Un esempio, Astra, da 12.500 euro con ESPI Plus e Clima. Affrettati, tutti gli incentivi scadono a dicembre. Il massimo è solo ora. Tutti passi per Opel, sabato e domenica. Meridiani presenta Città del Vaticano. La Cappella Sistina in 24 pagine imperdibili e tanti articoli insoliti. La Clericus Cup, tutte le auto del Papa, la vita a Borgo San Pio e tutti i mestieri dello Stato più piccolo del mondo. Meridiani è in edicola. È iniziata la corsa ai regali. Sono in uno dei tanti punti vendita Agip presi d'assalto. Ma ecco un socio You & Agip che prenota i prodotti Adidas e le tante bontà. A Natale fai i tuoi regali con You & Agip. Nel nuovo supplemento catalogo trovi i prodotti Adidas, i pacchi dono con tante specialità e molte altre novità. Ma affrettati, puoi accumulare punti fino al 31 dicembre e richiedere i premi entro il 21 gennaio 2010. Può essere previsto un contributo in denaro. Info dai gestori aderenti su youandagip.it. Borse in diretta. Procedono positivi i listini statunitensi con il Dow Jones che guadagna uno 0,38%, il Nasdaq lo 0,22%, lo Standard & Poor's lo 0,28%. Questo ha restituito un po' di fiato alle piazze europee che comunque procedono piuttosto deboli e la maggior parte con il segno meno. Parigi guadagna uno 0,08% mentre Francoforte cede uno 0,29%, Londra lo 0,22%. A Milano il FTSE All Share cede lo 0,27%, il FTSE MIB lo 0,30%. Sul listino principale il miglior titolo è sempre Campari che guadagna 2,5 punti, seguito da Geox più 1,24%, STM guadagna lo 0,87%, Impregilo lo 0,85%, Finmeccanica lo 0,62%. In fondo al listino invece troviamo Prismian a meno 2,12%. Autogrill che cede 1,5 punti, A2A cede l'1,15%, Fondiari Assai l'1,14%, Generali cede 1 punto, così come Unipol, mentre il Banco Popolare cede lo 0,79%, giù anche Unicredit e Intesa San Paolo che cedono intorno allo 0,60%. Per quel che riguarda i cambi, l'euro viene scambiato 1,48,35 sul dollaro. E per i mercati è tutto. Fiat Show presenta Il Poeta. Chi vi fa fare 100 km con meno di 3 euro? La feuille morte? No. L'humétan, le metano, altro che metano. Meta oui, te conviene. Sulla gamma metano Fiat hai il massimo degli ecoincentivi, fino a 6.000 euro. E in più un finanziamento a tasso zero e anticipo zero. TAEG 390, offerta valida fino al 31 dicembre 2009. Affrettati, gli incentivi statali stanno per scadere. Il campione! Maglia rossa, stivaletti neri, guanti in pelliccia, non si separa mai dal sacco. Slitta sul ring, Klaus Santa! E alla vostra destra, divisa bicolore, ha due facce, manda tutti in crisi. Dall'Europa, Mister Euro! A Natale abbatte i costi. Scegli Mailboxes Etcetera per spedizioni puntuali e imballaggi sicuri, con il miglior rapporto qualità-prezzo. Mailboxes Etcetera, un mondo di servizi al tuo servizio. Cerca il negozio più vicino su mbe.it. Progetti di architettura verde a New York, The Tote a Mumbai, a Roma il Maxi di Zadit. Questo e altro ancora a dicembre su Domus, la rivista internazionale di architettura, arte e design. In edicola. È arrivata l'auto che tutti aspettavano. Nuova Citroen C3, il Visio Drive. L'unica con parabrezza Zenith che amplifica il campo visivo di 80 gradi, regalando una sensazione di guida senza precedenti e un'incredibile luminosità. Approfitta subito della fine degli eco-incentivi per avere la nuova Citroen C3 da 9.900 euro nelle versioni benzina e GPL. In tutte le concessionarie Citroen, anche domenica 13. Nova Lab 24. Bentornati, Luca Tremolada al microfono. Siamo in collegamento con Gigi Donelli direttamente da Amsterdam. Buongiorno. Buongiorno Luca, buongiorno a voi. Con una piccola nota, pure di parlare di Copenaghen, mi tocca dirtelo, hai detto Amsterdam. Ah, ecco, infatti, infatti non so di... perché. perché magari pensa se mi rispondevi. Sì, esattamente, siamo qui ad Amsterdam, insomma, ci sono esatto. I canali, ma non c'è tutta questa confusione che ho sbagliato capitale. In realtà no, sono esattamente al Bella Center che, come sai, come hai anticipato, è il centro di questi incontri di Copenaghen. Di fronte a me c'è un grande globo di plastica, è molto suggestivo. Ma lo posso fare io la domanda? Com'è il clima? Cioè, non so se te l'hanno qua, in quante volte te l'avranno fatta, te la faccio io. Ma com'è il clima lì? Il clima è, direi, di stagione. Coperto, okay. Grigio e freddo. Ecco, perfetto. Quindi niente caldo, niente temperature. Cioè non, io mi aspettavo un po', ma non si resiste, si aspettava, non ci sono più le mezze stagioni. No. Direi che non mi spingo fino a tanto. No, oggi è anche proprio una classica giornata di dicembre. Chissà però se nella media statistica, anche su Copenaghen, di questo mese sarà sopra, sotto le medie. Argomenti delicati. Ecco, la sensazione qual è comunque, insomma? Si è appena iniziato, siamo agli inizi, insomma, schermaglie. Sì, assolutamente, anche perché soprattutto l'organizzazione, la macchina dell'organizzazione che si è messa in moto, lo ricordo, ci sono oltre 15.000 tra delegati, partecipanti, osservatori, per non parlare dei 5.000 giornalisti accreditati. Insomma, una grande macchina che si è messa in moto. Questo luogo, questo Bella Center alla periferia sud-est di Copenaghen, è di fatto un grosso centro fieristico all'interno del quale si alternano i padiglioni dei grandi paesi, delle fondazioni, dei gruppi di interesse, insomma tutto ciò che ha a che fare o direttamente o potenzialmente con i temi del cambiamento climatico si raccoglie qui in questi giorni. Quindi tu adesso ci fai la promessa che ogni giorno ci racconterai un po' quello che sta succedendo. Hai due settimane durerà, Sì, tu resterai fino a quando? Periodo, esattamente, io seguirò la prima settimana, ci daremo il cambio, poi ci sarà Sergio Nava che seguirà peraltro quelli che saranno dei giorni delicatissimi, perché come sapete benissimo, dopo varie titubanze il Presidente degli Stati Uniti ha finalmente deciso, sarà presente il 18 di dicembre, quindi venerdì, il 17 e il 18 di dicembre prossimo a Copenaghen, e naturalmente la sua apparizione, insomma, concentrerà moltissime persone. Infatti si parla di ottimismo, le agenzie continuano a battere la parola ottimismo. È anche la parola d'ordine con cui ha aperto oggi il ministro dell'ambiente Connie Hedegaard, che è una delle grandi ovviamente sostenitrici, ma non solo, perché è un ministro dell'ambiente è danese, perché è una di quelle figure politiche all'interno dell'Europa che da anni lavora comunque per una trasformazione anche dei costumi e del modo di vivere, partendo magari proprio dall'Europa. Grazie Donelli, noi torniamo a parlare ancora di clima e però cerchiamo di capire, insomma, la declinazione malattie e nuove malattie e cambiamento climatico. Siamo in collegamento con Guido Romeo da Roma e Andrea Crisanti, medico, professore di microbiologia all'Università di Perugia, e Crisanti ci stava appunto raccontando come si fronteggiano determinati agenti nuovi, come per esempio la zanzara tigre. Ma guardi, è molto difficile, perché la zanzara tigre si fronteggia, si subisce. È resistente a molti insetticidi. Era proprio questo il tema, cioè quello che sta emergendo è che oltre ad arrivare insetti portatori di malattie che appartenenti al mondo, a un clima tropicale, quello che ci appunto stava dicendo prima è che questi insetti sono addirittura anche molto più forti, sono corazzati rispetto al passato. E poi c'è comunque anche da dire che molti insetti sono stati anche resi resistenti agli insetticidi dall'uso sbagliato che si è fatto degli insetticidi nel passato. Anche dal fatto che molti insetticidi sono stati sviluppati per l'agricoltura e non per il controllo delle malattie, quindi hanno delle caratteristiche che poco si adattano al loro impiego per il controllo della trasmissione delle malattie. E quindi molto spesso una delle conseguenze è che gli insetti trattati con questi composti che non sono stati sviluppati e progettati per questo scopo sviluppano resistenza, e questo è successo per le zanzare, per esempio, che trasmettono la malaria in Africa. È un problema gigantesco, e quindi c'è anche da dire il fatto che è molto difficile sviluppare insetticidi, tant'è vero che da quasi 10 anni non se ne sviluppa nessuno. Ecco, ma è il caso, insomma, io mi stavo domandando, se ne parlerà di questi temi a Copenaghen? Ci sono dei tavoli tecnici che affronteranno anche questa declinazione del tema? Sicuramente, guardi, il problema del cambiamento climatico, la salute e la trasmissione di malattie da vettori è un argomento particolarmente delicato e con alta priorità anche nell'agenda europea. Lei pensi che la Commissione europea ha stanziato recentemente diverse decine e decine di milioni di euro per finanziare ricerca destinata allo sviluppo di nuovi metodi di controllo di malattie trasmesse da vettori, particolarmente in Europa, e proprio perché è percepita come un'emergenza, quindi sicuramente non passerà sottotono questo argomento. Ecco, però prima accennavo al fatto che si, insomma, per noi un po' di puzza di bruciato si sente. Guido, di fatto però il tema, questo tema qui non ha calcato tanto le pagine dei giornali, o mi sbaglio? Non ha calcato tanto, no, è giusto, è vero, non è arrivato tanto in pagina perché sono temi complessi, sono difficili da rappresentare, forse nei media sono sicuramente più difficili da rappresentare di una bella tra virgolette alluvione, un bel uragano, insomma, che invece abbiamo visto pesare molto sia sulla politica che sui media. Insomma, è difficile fare una foto, vendere una foto di una zanzara, invece abbiamo visto che le foto dei disastri causati da Katrina hanno spostato, anzi alcuni dicono sono stati la spallata poi alla presidenza di Bush, perché quello è stato un problema che ha fatto emergere delle carenze enormi, ed è poi stato anche un problema legato al cambiamento climatico. C'è addirittura chi dice che la mancanza di uragani da quando Obama si è insediato l'ha indebolito, perché sul fronte climatico non avere uragani ha fatto scendere un po' la priorità del clima. Però io volevo chiedere una cosa a Crisanti, perché è vero, gli animali che arrivano, gli insetti che arrivano sono più corazzati, la globalizzazione, come dire, fa da volano, però anche noi abbiamo nuove armi, anzi anche voi scienziati avete nuove armi, perché di molti insetti, di molti patogeni come quelli della malaria, di altre malattie. Pronto? Endemiche, sì. Si comincia a avere il genoma. Non ho sentito la domanda, sa, perché non sono... Allora, Guido Romeo diceva che nel vostro arco come scienziati avete più frecce in questo momento, e Guido intendeva le biotecnologie, insomma, ci sono dei nuovi strumenti, che ho anticipato un po' la domanda di Guido Romeo, ci sono degli strumenti, insomma, cerchiamo di dare anche una parola di speranza nei confronti. Perché, appunto, cioè, la comunità scientifica è mobilizzata nel trovare delle alternative è più efficace degli insetticidi, e anche che dal punto di vista ambientale non abbiano un impatto distruttivo su specie che non sono. Ecco, ci può fare qualche esempio? I nostri ascoltatori sono appassionati anche di tecnicismo. Un esempio che è veramente un esempio anche di grande successo, che praticamente è lo sviluppo di insetti maschi che sono geneticamente sterili, oppure che vengono resi sterili attraverso un processo di irraggiamento, e vengono rilasciati nell'ambiente per accoppiarsi con femmine, le quali, una volta accoppiatesi con questi maschi sterili, non danno nessuna progenie. E grazie proprio all'uso di questi maschi sterili, per esempio, è possibile contenere in diverse parti del mondo la mosca della frutta, che è proprio una malattia particolarmente grave e devastante dal punto di vista economico, e viene usata comunemente in California, in Israele, in Turchia, in Grecia, ed ha un grandissimo successo. Ecco, la domanda è stupida, però non è che si accentuerà, insomma, la ricerca in questo senso proprio perché all'indomani di Copenaghen, cioè io mi aspetto che molto probabilmente arriveranno molti più soldi su questi tipi di ricerche. Fin quando la malaria era un problema ristretto al sud del mondo, invece c'è stato, diciamo, una disattenzione da parte dell'Occidente. Sicuramente, anzi, il fatto che l'Occidente è in prima linea ha avuto un effetto importante nel focalizzare l'attenzione su queste problematiche, quindi chiaramente mobilizzare le risorse, perché per fare ricerca ci vogliono quattrini e ce ne vogliono anche tantissimi, e in genere poi sono tutti quattrini che vengono da coloro che pagano le tasse, quindi ci vuole chiaramente la volontà politica prima di tutto per fare ricerca. Ecco, in questo senso non c'è il timore anche che vengano un po' esasperati o esaltati questi pericoli proprio da parte di una parte degli scienziati? Sì, però lei giustamente mi faceva notare che queste tematiche non sono emerse sui giornali proprio perché diciamo se ne discute con grande pacatezza, al contrario dell'influenza suina, insomma, ecco, quindi il problema esiste, è stato affrontato in diverse sedi, sono stati stanziati finanziamenti di cui anche noi siamo stati beneficiari, quindi questi finanziamenti, ma per esempio per il momento adesso noi siamo coinvolti in un progetto che prevede la manipolazione genetica di zanzare in modo da renderle incapaci di trasmettere la malattia, oppure modificarle geneticamente in maniera tale che vengano rese sterili, insomma ci sono varie tecnologie. Quindi possiamo dire che la zanzara killer sarà un osservatore speciale di Copenaghen, perché se tutto va come deve andare, insomma la prima a rischiare moltissimo sarà lei, buon per noi, buon sì, per certo, noi. Certo. Ah. E poi c'è da dire che anche un'altra cosa, per esempio anche ci siamo impegnati anche in Italia, nella comunità europea, per esempio per sequenziare il genoma della zanzara tigre, perché soltanto sequenziando il genoma e conoscendo tutti i geni è possibile per esempio identificare bersagli per sviluppare nuovi insetticidi, oppure identificare i bersagli per manipolazione genetica, quindi diciamo la comunità scientifica è mobilitata su questo, su questo argomento. Benissimo, io ringrazio il dottor Andrea Grisanti e do la linea al traffico, poi ci risentiamo dopo con Guido Romeo. Strade in diretta. Sono 2 chilometri di coda per un incidente sull'autosole tra Monte San Savino e Arezzo verso Firenze, poi code per un incidente anche sul tratto urbano della 4 tra Cormano e lo svincolo per la Fiera verso Torino e per il traffico intenso in direzione opposta. Sulla tangenziale est di Milano le code per il traffico intenso sono verso Smate Velate tra Forlanini e Palmanova. Traffico intenso anche in Liguria, sulla 10 dei Fiori le code sono tra Finale Ligure e Spotorno verso Savona e rallentamenti anche sulla 22 del Brennero in direzione Modena tra Bolzano Sud e Affi. Verso il grande raccordo anulare le code a tratti sono sulla 24 tra la tangenziale est di Roma e Tor Cervara e nella capitale segnaliamo un incidente che causa rallentamenti in corso d'Italia in direzione piazzale Flaminio all'altezza di piazzale del Brasile. Anche a Torino per un incidente segnaliamo la chiusura del corso Casale nel tratto tra piazza Gran Madre e corso Gabetti. E vi ricordiamo come sempre il nostro numero verde utile per le vostre segnalazioni 800 19 7313. Strada in diretta a Torna tra circa un'ora. Nova Lab 24. Nova Lab 24. Sono sempre di più gli italiani che usano il web per scegliersi il libro. In particolare, tra i ragazzi, il 23% dei 14-19enni si affida ad internet. È quanto emerge da un'indagine dell'Ufficio Studi dell'Associazione Italiana Editori, presentata a Più Libri, Più Liberi. Un numero su tutti. Oggi 15 italiani su 100 cercano il libro sul web. Erano 11 nel 2007. Digitale e carta sempre più vicini. Le autorità cinesi hanno promesso sostanziose ricompense pari anche all'equivalente di quasi 1000 euro a chi segnala siti pornografici da bloccare. In pochi giorni sarebbero già arrivate oltre un migliaio di segnalazioni che avrebbero aiutato le autorità a individuare 13.000 siti con contenuto pornografico. Vista la diffusione di indirizzi internet a luci rosse, il censimento rischia di durare a lungo. Intel ha cancellato i piani per la realizzazione di un chip avanzato di grafica basato sull'innovativo progetto Larrabee Design. Motivo? I ritardi rischiano di rendere il progetto non competitivo. La decisione rappresenta un intoppo nei piani di Intel, che progetta di concorrere con Nvidia e Advanced Micro Device, ora protagonisti nel mercato della grafica. La musica su internet sarà in streaming, forse una nuova rivoluzione. Una conferma arriva indirettamente da Apple, che ha acquisito il servizio musicale digitale Lala. Il fatto che l'azienda più importante nel campo della vendita di musica online, in posizione dominante, decida di esplorare nuovi modelli per vendere canzoni, è un indizio da non sottovalutare. Ecco, un indizio da non sottovalutare, come un indizio da non sottovalutare, abbiamo visto in questa puntata come insomma scienza, business si inseguano e si intrecceranno molto, in maniera molto stretta a Copenaghen. Sei d'accordo, Guido? Scienza, business e media, direi, sì. E interessi, grandi interessi politici, insomma, non è sfuggito credo a nessuno che a pochi giorni dall'apertura è nato il Climate Gate, quello che è un piccolo, inizialmente era un piccolo scandalo, ma si sta allargando a macchia d'olio. La storia che è rimbalza sulle testate, su diverse testate di tutto il mondo da circa una settimana, appunto, è che ricordiamo, i server dell'Università dell'East Anglia in Inghilterra sono stati forzati e qualche migliaio di email tra i climatologi più famosi del mondo, più importanti del mondo, sono finiti di dominio pubblico e sono... Insomma, si parla di un ritocco. Di un ritocco, ma con le mani malate, insomma, dei dati. È il trucco, ecco, di Mike. L'oggetto di contendere è il trucco di Mike, perché appunto in una di queste email si parlava di Mike Trick, e in realtà poi gli scienziati spiegano che è un, come dire, un linguaggio colloquiale per dire l'applicazione di una come dire, di una procedura matematica per elaborare questi dati, ma non c'è nessuna frode. Io stesso ho scaricato tutte le email, perché ormai sono di dominio pubblico, me ne sono guardate più di 1000 e devo dire, non ci sono, cioè la pistola fumante non c'è. Il fatto nuovo è che questo Climate Gate, che alcuni dicono causati dagli hacker russi a soldo dell'FSB, l'ex KGB, questo Climate Gate si sta espandendo un po' a macchia d'olio, perché c'è stato già un caso nelle ultime 48 ore in Nuova Zelanda e ancora più recentemente in Canada, dove appunto in Nuova Zelanda sono stati i computer del NIVA, l'Agenzia Nazionale per il Clima, e in Canada c'è stato un furto di computer all'Università di Vittoria, dove c'è proprio Andrew Weaver, che è uno dei capi dell'IPCC. Diciamo che chi in questo momento ha i soldi e quindi si può permettere i migliori hacker o i migliori cracker, insomma, ha i soldi e ha un interesse, insomma, per dire che non esiste problema sul clima, sta facendo qualcosa, ecco, questo lo possiamo dire. Ma sicuramente questo è una, come dire, è un'interpretazione, dai. Mottola che fa un favore ai climatoscettici, ai negazionisti, come li chiami, ecco, tu, insomma, senza parlare di guerre di religione, ma sicuramente uno scontro, diciamo, che c'è. Uno scontro c'è. Guido, ti ringrazio, noi diamo l'appuntamento a domani, ci stanno sfumando, ci sentiamo domani alle 16. Job 24. Bentrovati da Roberta Pellegatta. Oggi condividiamo uno spazio di lavoro risparmiando e socializzando. Lo facciamo attraverso il cosiddetto co-working, formula importata dagli Stati Uniti e presente in Italia da qualche mese. Ci spiega nel dettaglio in cosa consiste il co-working Massimo Carraro, titolare dell'agenzia di comunicazione Monkey Business e ideatore del network Covo. Dunque, il co-working è semplicemente lo stile di lavoro che vede professionisti di estrazione diversa, che conducono professioni differenti, condividere degli spazi in una logica collaborativa, cioè conoscendosi e in maniera anche informale e minimale, traendo vantaggio dalla vicinanza reciproca. Detta così, io mi immagino un open space con diverse scrivanie, ognuna delle quali ha un computer, un accesso a internet, una postazione e persone che se ne servono. Sì, più o meno così. Quindi chi sono i possibili fruitori del co-working? Freelance, immagino, persone che lavorano fuori sede? Sì, sicuramente freelance, sicuramente persone che lavorano fuori sede, in generale tutte le persone che lavorano con stile lavorativo nomade e quindi che si muovono con frequenza e che non sono legate a una presenza fisica all'interno di un'azienda, quindi in realtà è un mondo molto molto vasto che abbraccia dai liberi professionisti agli sviluppatori di software, ai consulenti, ai giornalisti, ai creativi, insomma una community molto allargata. Tutte persone alle quali non conviene, diciamo così, procurarsi un ufficio tutto per sé. Sì, o non conviene o non interessa, perché molti di questi non hanno una reale esigenza di avere una struttura fissa per molto tempo, hanno bisogno di strutture per poco tempo, non sempre, e spesso anche in città diverse. L'altro lato del nostro progetto è proprio creare il network di questi spazi, offrendo a chi vuole aprire appunto i propri spazi professionali a professionisti esterni i necessari strumenti per farlo senza dover documentarsi, prepararsi, eccetera. Noi forniamo proprio un kit di attivazione molto semplice e molto conveniente, ed è una proposta che ha trovato il favore di 25 realtà da febbraio a oggi. Quindi in Italia al momento ci sono 25 spazi in coworking. 26 con il nostro. I prezzi sono standard? Abbiamo un accordo scritto che impegna tutti gli spazi a non superare la quota di 300 euro al mese per una postazione. Quindi quella è la cifra massima, 300 sì, euro al mese? Sì, in realtà quasi nessuno spazio chiede tanto. E ad esempio una giornata in uno spazio coworking quanto può costare? Ma in genere sui 20 euro, però alcuni spazi, come ad esempio anche il nostro, offre l'ospitalità gratuita per una prima giornata di conoscenza reciproca. Ed era Massimo Carraro, ideatore del network Covo, a cui tra gli altri ha aderito Ico Media Lab, società specializzata nei progetti di comunicazione sui canali digitali. Ico Media Lab offre in coworking i suoi ambienti lavoro di Via Marghera a Milano. Sentiamo l'amministratore delegato Marco Tosi. Nel nostro caso noi abbiamo un bello spazio in abbondanza rispetto alle nostre esigenze e quindi abbiamo deciso di dare disponibilità con una forma di rimborso spese, ma l'idea è soprattutto di avere persone che girano con cui venire a contatto. Noi siamo insomma nel mondo delle idee ed è molto interessante venire a conoscere persone che fanno lavori diversi, magari integrati rispetto al nostro, ma non proprio lo stesso. Il nostro DNA è multicompetenza, facendo progetti digitali si mettono insieme in qualche modo i creativi con i tecnici e abbiamo dovuto convivere fin dall'inizio con la difficoltà ma anche il piacere di vedere lo stesso problema, lo stesso progetto da angolazioni diverse. Ecco, l'idea è di ampliare il numero di angolazioni con cui discutiamo delle cose, anche perché negli spazi poi le persone si incontrano, io spero che si faccia anche amicizia, no? La maggior parte dei lavori hanno comunque, secondo me, beneficiano dell'aspetto sociale. Per avere informazioni sugli spazi in coworking che aderiscono al progetto Covo e per tutti i dettagli, l'indirizzo è coworkingproject.com. Vi foste persi qualche dettaglio, ricordo che è possibile riascoltare le nostre puntate al nostro sito www.radio24.it. Grazie per l'ascolto, con Gio 24 ci ritroviamo domani, stessa ora, stessa radio. Passi per Opel, prezzi shock su tutta la gamma. Un esempio, corsa da 7.900 euro con ESPI Plus e clima, con rottamazione. Affrettati, tutti gli incentivi scadono a dicembre. Il massimo è solo ora. Tutti passi per Opel, sabato e domenica. Tutto Villa, storia di una voce. Serenata messicana, Ciribiribin. Granata, luna rossa o sole mio. Che bella cosa. Grande Claudio Villa in una raccolta imperdibile. Chitarra romana, ma la femmina, non pensare a me. Tutto Villa, 40 successi in 2 CD a 12,90 euro, nei negozi e nelle edicole. C'è un dessert che va agitato e nel freezer congelato. Ciao, sono Antonella Clerici. Sapete qual è la fresca novità di Natale? Ferrero Gran Soleil all'ananas, con il gusto squisito e leggero dei pregiati ananas della Costa Rica. È il dessert ideale per le feste. Piace, rinfresca, solleva. Se ne può fare a meno? Ferrero Gran Soleil, il dessert ideale per le feste di Natale. Da oggi anche all'ananas. Suona l'allarme di casa. Corro subito a vedere. Ti accompagno. Che sarà successo? Allarme furto zona ingresso. No, suona anche il tuo allarme. Dobbiamo correre anche a casa tua. Tranquilla, io ho Combibox e posso controllare dal mio telefonino quello che è successo. Combibox, l'ideatore del primo antifurto GSM, crea sistemi di allarme professionali per controllare casa e ufficio dal telefonino. Vai su combibox.it. Guarda anche tu sul mio telefonino. È Fuffi, il gatto del vicino. Io sono Francesco Giuseppe di Cantagallo. Servitemi un panino col culatello, senza indugio. In Autogrill c'è il panino con Sua Maestà il culatello di Zibello Dop Negroni. Ti fa sentire come un re. Autogrill, la sosta con la A maiuscola. Cosa le do, signora? Mutuo a tasso fisso, variabile o misto? Se non ti orienti nel mercato dei mutui, vieni all'ufficio postale. Con Mutuo Banco Posta compri o rinnovi la casa. Trasferisci gratis il mutuo da un altro istituto di credito e trasformi in contante il valore della tua abitazione. E fino al 31 gennaio 2010, su acquisto e ristrutturazione, speciale spread dell'1,35%. Fogli informativi e condizioni generali disponibili negli uffici postali abilitati. Richiesta soggetta a valutazione dell'istituto di credito erogante. E 5, 6, 7, 8. Ciao, sono Gledi. Non sto preparando un passo di danza. Sto contando le mie amiche pigotte, le bambole di pezza dell'UNICEF. Sono bambole speciali che salvano la vita di migliaia di bambini. Vieni anche tu a scegliere la tua pigotta in una delle oltre 500 piazze italiane. Per trovare quella più vicina a te, chiama il numero verde dell'UNICEF 800 74 5000 o vai sul sito unicef.it. Adotta una pigotta. Ogni pigotta adottata è una vita salvata. Se non sei solo fumo, se fai sempre a modo tuo, se ami cambiare le regole, allora sai che è il momento di passare a Renault.